Radio 24 presenta Il sabato del villaggio di Marta Cagnola. Buongiorno, ci siamo con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio, come sempre, è il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, libri. Due ore per stare insieme anche in questi sabati di luglio. Siamo un po' più piccolini del solito, ma le puntate sono tutte nuove. La seconda ora dalle 17 alle 18 con il nostro consueto appuntamento con RadioTube, insieme a Daniele Bellasio, per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Parleremo di tanti argomenti anche nel nostro sabato del villaggio. Sulle Dolomiti, il nostro appuntamento con i viaggi insieme ad Anna Rita D'Ambrosio e al Touring Club Italiano. Tutte le novità del cinema della prossima stagione svelate in questi giorni a Riccione. Avremo tutte le notizie di quello che vedremo poi l'anno prossimo. Parleremo di Carosello perché, lo sappiamo, qualche tempo fa ha compiuto gli anni e ora lo festeggiano la TV e anche un libro. Ma partiamo inevitabilmente così. Per arrivare a timbrare il cartellino d'entrata alle 8:30 precise, Fantozzi, 16 anni fa, cominciò col mettere la sveglia alle 6:15. Oggi, a forza di esperimenti e perfezionamenti continui, è arrivato a metterla alle 7:51. Vale a dire al limite delle possibilità umane. Tutto è calcolato sul filo dei secondi. 5 secondi per riprendere conoscenza. 4 secondi per superare il quotidiano impatto con la vista della moglie. Più 6 per chiedersi, come sempre senza risposta, cosa mai lo spinse un giorno a sposare quella specie di curioso animale domestico. La canzoncina che ho cantato più spesso questa settimana, inevitabilmente, la musica di Fantozzi. Non potevamo non ricordare Paolo Villaggio anche nel nostro sabato del villaggio, perché Paolo Villaggio fece la prima trasmissione radiofonica, indovinate un po' come si chiamava? È proprio il sabato del villaggio. Beh, insomma, è stato un grandissimo personaggio e anche un grande uomo che ci ha lasciato questa settimana. Non potevamo non parlarne, appunto, e io ho scelto di chiamare una persona che ha avuto una grande idea in qualche modo qualche tempo fa, ed era quella di raccontare una cosa molto particolare di Paolo Villaggio. Ha chiamato in causa tante persone per parlare di questo argomento ed è stato anche, poi questi sono i casi della vita, l'ultima persona in qualche modo a dirigere Paolo Villaggio in questo film che ha realizzato e che speriamo di vedere presto, perché adesso gli chiediamo a che punto è questo La voce di Fantozzi. Ci colleghiamo subito con il critico cinematografico ma anche regista Mario Sesti. Ciao Mario! Ciao Marta, grazie di questa presentazione, non so se sono all'altezza di tutta questa... No, dai, attenzione. Mario, poi al sabato del villaggio già ti conosco, i nostri ascoltatori conoscono la tua competenza, e in questo caso appunto non tanto da critico ma anche da regista, perché tu avevi deciso di raccontare la voce di Fantozzi, che è una cosa molto particolare. Sì, in realtà diciamo si fanno film anche per scrivere, quindi si fanno, e le cose si capiscono mentre i film si fanno. Come credo di averti accennato qualche giorno fa, che succede? Ci mettiamo in pista, ci rendiamo conto che tutti vogliono parlare di Villaggio, da Dario Fo a Roberto Benigni, da un sociologo come Domenico De Masi, ad attori come Abba Santuono, come Frasia, come Maurizio Battista, insomma. Ci rendiamo conto che la cosa più facile sarà esattamente questa: raccogliere testimonianze su cose preziose, prestigiose, anche spettacolari, Fiorello, insomma, dimmi una. Cosa succede? Non c'è o quasi persona che nel momento in cui non si metta a parlare di Paolo Villaggio non inizia a fare la voce di Fantozzi, tutti. Che nei riparenti detto si chiama tecnicamente la voce lupata. Ah, okay. Che gli diedero Neri e credo Benvenuti e De Bernardi, neanche Villaggio, quindi la voce lupata, che si faceva poi sempre all'ultimo, perché appunto, come ricorderete, come avete sentito, era recitato lo stesso Villaggio, perché siccome impegna molto la faringe eccetera, se uno la fa all'inizio poi si sgola completamente. Era tenuta come ultima cosa, che questa è una piccola curiosità che abbiamo raccolto, no? Era l'ultimo elemento dell'edizione dei film di Fantozzi. Ora, nessuno su questo pianeta, soprattutto in questo paese, può fare questa voce in questa maniera senza che si liberi un mondo, no? Non solo un personaggio, ma un'idea tragica, come diceva lui, e in questo tragico c'era qualcosa di molto drammatico e anche di molto divertente, di molto ridicolo, perché la cosa che per l'appunto forse Villaggio ha fatto meglio di chiunque altro è dimostrare come la comicità è fatta in 50 e 50, 50 di pura tragedia e 50 di puro divertimento fondamentalmente. Mario, tu l'hai incontrato per questo film, l'hai intervistato a marzo, se non sbaglio. A fine marzo, esatto. In un momento in cui la malattia gli ha dato qualche momento di tregua e quindi abbiamo potuto ancora una volta, diciamo così, contare sulla sua lucidità, anche se poi fisicamente era costretto su una sedia a rotelle, e devo dire che in un'ora e mezza di conversazione ha parlato quasi sempre di Kafka e di Dostoevsky, che erano gli autori che lui prima, e lui mi ha detto: più che leggere nella vita io ho riletto. Cioè, è importante rileggere, che credo che sia una notazione anche questa piuttosto interessante. E poi, soprattutto su Kafka, era un autore che in questo momento sentiva particolarmente vicino, perché naturalmente la malattia lo incalzava, lui ne era perfettamente consapevole, sentiva l'imminenza dell'arrivo, diciamo così, del più spietato mega direttore che tutti noi dovremmo incontrare prima o poi nella vita, diciamo così. E lui diceva per l'appunto che quella risata alla Kafka, piena allo stesso tempo di angoscia però anche di libertà, era la cosa che più gli sembrava bella, che più avrebbe voluto consigliare un lettore in quel momento, qualcosa per l'appunto che ti dà la forza di affrontare l'inaffrontabile. Diciamo fondamentalmente questo. Poi, come credo si vedrà, naturalmente lui anche in quei momenti non ha cessato mai di far ricorso all'ironia, che come sappiamo è stato il suo strumento più affilato. A un certo punto dell'intervista dice: che faccio? Mi suicido? No, non posso suicidarmi, avete un coltello? Naturalmente con tutta la mimica di Fantozzi, eccetera. Quindi era stato anche un momento molto rivelatore di come poi c'era un'autoterapia, di come poi nella sua vita ha saputo usare quella stessa spietato humor anche evidentemente per affrontare i momenti più difficili, come magari a chiunque naturalmente, in particolare il più difficile di tutti probabilmente. Mario, quando potremo vedere questo La voce di Fantozzi? In questo momento sta nelle mani della Commissione di Selezione di Venezia, io spero che lo ritengano per l'appunto all'altezza di questa selezione, dopodiché stiamo ragionando con delle distribuzioni che sono interessati per i primi mesi del prossimo anno, credo, per il momento, a meno che appunto, però come sai dipende molto dal fatto se c'è un passaggio a un festival, certo, che tipo di reattività si riscontra, che tipo di interessi e di attenzione è in grado di sollevare, cose del genere. Sicuramente però ci sarà una versione cinematografica, perché il film è stato pensato per il cinema e naturalmente anche una versione televisiva. Devo dire che l'ideale, avendo raccolto così tanto materiale, sarebbe veramente una serie. Ah, certo. A trovare una Fantozzi story veramente, perché abbiamo raccolto così tanto materiale, così interessante. E nel film ci sarà Cannavacciuolo che fa la frittata di Fantozzi. Cannavacciuolo fa tutta una cosa molto particolare, perché una volta ha incontrato Villaggio in uno stesso ristorante e ha visto che si faceva una pizza di quelle in cui si può mettere il proprio condimento, e l'arricchiva così tanto di condimento che a un certo punto il condimento era molto più alto della pizza. E allora su questa cosa ha detto: farò una roba alla Villaggio, ma non come, cioè, fa la frittata di Fantozzi come l'avrebbe fatta Villaggio, quindi l'arricchisce di pisellini, di ragù, non solo di cipolla, quindi fa una versione, diciamo così, d'autore, ecco, della frittata di Fantozzi, che tra l'altro è molto buona, almeno fatta da Cannavacciuolo sicuramente. Non ho dubbi, davvero sarebbe davvero bellissimo avere una serie di questa La voce di Fantozzi, che io aspetto davvero con ansia, quindi spero davvero di vedere presto questo lavoro di Mario Sesti. Grazie Mario per essere stato con noi. Grazie a te come al solito della tua intelligenza e della tua attenzione. Addirittura, grazie mille Mario. Noi ci ritroviamo tra pochissimo dopo il traffico. Sabato 18 alle ore 20 e 25 in telecronaca diretta da Wembley, Inghilterra-Italia, valevole per la qualificazione della Coppa del Mondo. Fantozzi aveva un programma formidabile: calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato e rutto. Il sabato del villaggio. La solitudine si deve fuggir, si deve fuggir, sol tra compagni si può gioir, sol tra compagni si può gioir. Signori, alt! Ma siamo pazzi! Alla vostra età ancora il girotondo! Ma siamo forse all'asilo? Che solitudine è solitudine! Io solo so quel che ci vuole! Indovinate cosa vi porto adesso? Valigie! Ci siete cascati! Ha! Un Ritz non si è mai soli! Dolce da una parte, salato dall'altra! Compleanno è stato un po' di tempo fa, questo Carosello che era nato nel 1957, quindi questi 60 anni di Carosello che in realtà sono stati festeggiati un po' in sordina, non se ne è parlato tanto. Finalmente sarà complice l'estate, la televisione si ricorda dei 60 anni di Carosello, ieri sera la prima puntata, la prossima settimana la prossima puntata di questo stracult di Rai 2 con Marco Giusti, che è stato proprio il più grande estensore di un'enciclopedia di Carosello, di un testo fondamentale ormai da tanti anni. Ma io sono contenta di poter parlare di questo libro che avevo non solo sulla scrivania, ma avevo anche riempito di post-it, di cose divertenti che c'erano in questo libro già da qualche tempo. Insomma, c'è la scusa per tornare a parlare del compleanno di Carosello, un appassionato, perché lui è un giornalista di spettacoli, lavora nella redazione di Sky TG24, ma ogni tanto si possono anche scrivere dei libri sulle proprie passioni, e in questo caso la passione è quella per Carosello. Carosello, genio e pubblicità all'italiano. Italiana, un libro edito da 900 Editore e scritto da Marco Melegaro. Ciao Marco! Ciao, ciao! Allora, ho detto una tua passione, perché sai, poi quando uno fa il giornalista di spettacoli deve fare un po' di tutto. Poi voi a Sky TG24, come noi a Radio 24, abbiamo dei tempi belli, belli intensi, belli intensi. Sì, stretti sempre, sì, sempre sulla notizia. E invece qui siamo andati a ritroso, assecondando una passione infantile proprio. Qualcuno l'ha definito un atto d'amore per un'Italia che non c'è più, sai, un'Italia che era lo specchio dei tempi ed era rappresentata da Carosello, quindi un'Italia in cui arrivavano i primi supermercati, i primi consumi di massa, la prima pubblicità in televisione. Tutto e questo poi, mi ha avvicentato. Io ho curiosato il tuo anno di nascita e ho guardato, insomma, tu eri uno di quei bambini che andavano a letto dopo Carosello. Sì, perché io inizio a guardare la TV negli anni 70, quindi sì, sicuramente sì. Sì, hai fatto in tempo. Io me lo ricordo pochissimo perché ero molto piccola, ma... Devo ringraziare i miei che me lo facevano vedere, guarda, perché sennò questo libro qui non usciva. È verissimo. Adesso abbiamo sentito un Paolo Villaggio, ne abbiamo parlato finora, che ha anche lì rivoluzionato il linguaggio di Carosello, faceva delle cose, le sue cose folli le ha fatte anche in Carosello, perché a Carosello sono passati tutti i più grandi. Sì, infatti qui... È vero quello che dici, si può fare un parallelismo da quelli che la domenica, no, quando lui prendeva in giro il pubblico, anche questa pubblicità qui sbeffeggia un po', prima di dire non sia mai soli con il Ritz, no? Sbeffeggia un po' gli interlocutori, era un villaggio proprio prima maniera, fine anni 60, poi farà anche Fracchia, il personaggio di Fracchia, ne fa tanti altri, fa i cerotti Band-Aid perché se li ricorda. Certo, tu hai fatto proprio un'analisi anno per anno, perché l'evoluzione dal 57 al 77, diciamo, quando è stato tra virgolette ucciso Carosello, ma in realtà è 76 perché col 77 si chiude, passano gli anni, quegli anni sono veramente l'uno completamente diverso dall'altro, perché l'Italia ha avuto un'evoluzione incredibile in quei 20 anni, ogni anno la storia del paese, e Carosello esattamente raccontava quello che stava succedendo, meglio di una di un libro di storia, meglio di ogni tipo di cronaca. Sì, infatti io ho voluto dare un taglio cronologico perché di pubblicazioni su Carosello già ce n'erano. Ho voluto un po' caratterizzarlo con quanto riuscivo a analizzare nel costume sociale. Spero di esserci in parte riuscito. Ah, io l'ho trovato davvero molto molto gustoso. secondo te, se una persona non avesse visto Carosello, e ormai su YouTube se ne trovano tanti di caroselli, e io dico, se una persona avesse visto Carosello, perché Carosello, essendosi concluso nel 1977, ci sono i trentenni che l'hanno, che già non se lo ricordano, e per non dire dei più giovani, tu come cosa consigli di non perderti? A cosa sei particolarmente affezionato? Ma guarda, sono tanti i personaggi. Sicuramente Carosello diede un grosso impulso all'animazione. Anche io, sai che ti stavo dicendo, per me l'animazione, perché erano, all'epoca di cartoni animati ce n'erano pochi in televisione, non era poi come negli anni Ottanta che è stato Tana libera tutti dalla mattina alla sera. Si aspettava Carosello per l'animazione, Calimero. Facciamo una eco a Visconti nel cinema con Rocco e i suoi fratelli, qui potremmo traslatamente dire Calimero e i suoi fratelli, se mi passi la battuta. Verissimo, Calimero e i suoi fratelli. Poi caroselli d'autore, io quello che ho rivisto con più piacere direi Ermanno Olmi. Tu cosa sceglieresti? Anche tu? Nescafè, Nescafè di Ermanno Olmi, il mio preferito. La musichetta era bellissima e poi rende proprio le atmosfere delle prime ore del mattino, quello che un po' faceva anche Paradisi con, non so se ti ricordi, Premium Saiva, Ninetto Davoli, certo. Carino Pasolignano che va a portare non il pane ma i Premium Saiva. E poi c'è un capitolo molto bello di quando Carosello racconta lo sport, ci sono passati tutti gli sportivi più importanti di quegli anni, veramente anche sullo sport tu hai raccontato delle cose molto molto interessanti, anche perché in quegli anni grandi successi, ci sono le Olimpiadi, ci sono tante cose meravigliose. Sì, infatti, erano molto belli gli spot della Pirelli, veramente d'autore, con tanti personaggi famosi. Molto bello anche quello di Emmer, ciascuno il suo guardaroba, no? Per la facis. Ah, quello che c'erano, lo sportivo alto, lo sportivo magro, quello più cicciottello. Sì, praticamente lui metteva gli sportivi in giacca e cravatta, li presentava. E gli sportivi si cimentavano in discipline diverse dalla loro, tipo Pietrangeli nel calcio, no? Molto molto carina anche questa. Tra l'altro, in questi anni, tantissime raccolte di DVD in edicola legate a questo o quel quotidiano, a questo o quel giornale, successo sempre grandissimo. Secondo te come mai ancora vogliamo guardare caroselli, collezionare caroselli? Ma guarda, sicuramente tiriamo in ballo i favolosi anni 60 e prima ancora il quinquennio del boom economico. Cioè, Carosello è stato lo specchio dei tempi, di un momento favoloso per noi che non torna più. Gli anni 60 appunto e gli anni 70, almeno il primo quinquennio. Poi per concludere il libro hai intervistato il professor Giorgio Simonelli, che noi spesso ospitiamo al Sabato del Villaggio, io sono molto legata a lui, è stato il mio relatore della tesi, lo confesso, è stato il mio relatore della tesi, ai noi, non ai tempi di Carosello ma quasi. Hai cercato di rispondere alla domanda chiedendolo anche al professor Simonelli chi ha ucciso Carosello, perché poi tutti questi anni dopo, 40 anni dopo, ci chiediamo perché è finito Carosello. Infatti Simonelli è un grande docente di storia della televisione. Lui ha tirato appunto, ha menzionato per così dire la riforma della RAI, no? A metà anni 70. Forse non basta, e infatti lui cita anche l'avvento delle TV private, no? Certo. Verso la fine degli anni 70. Una pubblicità come quella di Carosello probabilmente era troppo lenta, poi la stessa programmazione che era seriale non piaceva ai pubblicitari, che dovevano pagare sia l'attore nella prima parte dello spettacolino e poi il prodotto, il codino, anche quello andava pagato a parte, forse costava troppo Carosello ai pubblicitari e si è optato per pubblicità più moderne, più tecnologiche, meno spettacolari, con meno anima. Ma sicuramente più efficaci e brevi. Sono d'accordo con te. Allora, io vi do un consiglio. Il libro di Marco Melegaro, Carosello, genio e pubblicità all'italiana, man mano che lui cita i caroselli, li cercate in rete perché si trovano. Quindi fate, no? un po' di richiami, la carta, e vi guardate subito il carosello trovandolo in rete, magari su YouTube. Si può fare così, no Marco? Secondo me potrebbe essere una tattica giusta. È il modo migliore per approcciarsi all'universo di Carosello, credo, Marta. Grazie, grazie a Marco Melegaro, che vedete sempre nelle news di Sky TG24. Lui si occupa di spettacoli, è davvero bravo, ma a un certo punto si è concesso un momento per dedicare la sua attenzione a una sua antichissima passione di infanzia, ma non solo, Carosello, genio e pubblicità all'italiana. Grazie per essere stato con noi, Marco. Grazie. Ciao Marco. Grazie a voi, gli approfondimenti che fate. Grazie a Radio 24. Grazie, grazie a Marco Melegaro. Noi facciamo una breve pausa e poi saremo ancora insieme. Quando la notte va via. Il sabato del villaggio. Le navi salpano, le spiagge bruciano, selfie di ragazze dentro i bagni che si amano. La notte è giovane, giovani vecchi, parlami d'amore che domani sarò a pezzi. Intanto cerco il mare, una villa reale. Tra poche ore, sotto il sole, sotto il sole. Sotto il sole di Riccione c'era anche il nostro Franco D'Assisti. Ciao Franco. Sì, eravamo esattamente sotto il sole di una terrazza che ha l'unica copertura al mondo che fa passare il sole. Quindi la mia testa, che ha un ampio spazio, diciamo, disponibile, è stata filtrata dai raggi UVA. Ti sei scottato un po'? No, non tanto, perché andavo a mettere la testa sotto l'aria condizionata e cercavo di sopravvivere. Allora, non è andato al mare, Franco, no, D'Assisti. Non stiamo Non eravamo al bagno. Stiamo svelando le vacanze di Franco D'Assisti, ma sei andato a fare una cosa molto importante a Riccione, a seguire una cosa che è davvero un evento che è davvero importante per chi segue il cinema, perché come i giornalisti televisivi sono andati a seguire i palinsesti, ne abbiamo seguito quelli della Rai, quelli di Mediaset, tu invece sei andato a curiosare tra le novità che presenterà il cinema. Assolutamente, nei palinsesti del cinema, che si chiamano listini e che vengono presentati in due grandi manifestazioni. Una si svolge appunto a luglio a Riccione, si chiama Cine, e l'altra invece si svolge solitamente all'inizio di dicembre a Sorrento e riguarda il secondo semestre, diciamo, appunto del cinema. Questa di Cine è invece incentrata sui film che vedremo in sala da adesso, da subito, da metà luglio, nella stagione estiva, fino ad arrivare praticamente a Natale. Franco, non vi fanno vedere i film interi? Qualcosa ci fanno vedere anche intero, qualche anteprima l'abbiamo vista e già me ne viene in mente uno che poi voglio segnalare. Ovviamente tutta roba di cui parleremo durante la stagione alla Rosa Purpurea, ma ci fanno vedere una caterva di trailer, cioè ci mettono dentro alle 9 del mattino in questo splendido auditorium di questo Palazzo dei Congressi di Riccione e giù con i trailer. Ogni casa di distribuzione ha il suo spazio, la sua ora e mezza, e ci presenta tutto il listino a furia di trailer, magari anche con dei talent che arrivano e incoraggiano, perché il compito di Cine istituzionale non è tanto per i giornalisti, ma è per avvicinare chi i film li distribuisce a chi i film li proietta, cioè agli esercenti. Cioè ci sono gli esercenti dei cinema che si guardano insieme a voi i trailer, dicono questo lo prendo, questo mi interessa, questo non mi piace, e quindi è un po' una sorta di grande vendita di film da parte dei distributori, che si fanno aiutare anche dai talent, dai registi, dagli attori, certo, per convincere gli esercenti ad acquistare il loro film. Allora, raccontaci un po' che cosa ti ha colpito particolarmente. Cominciamo a prendere nota, anche perché faremo una figurone se già sappiamo cosa vorremmo vedere l'anno prossimo. Sì, però ecco, è interessante, perché poi cosa portiamo a casa noi giornalisti? Questa cosa qua che mi chiedi tu, cosa vedremo in sala da qui a gennaio? Che tipo di stagione stagione si sta profilando. E allora ti dico, intanto è una stagione abbastanza incoraggiante, perché ho visto alcune major che magari negli ultimi anni avevano vissuto qualche momento di difficoltà. Poi sai, il cinema è come un terno al lotto, no? E tiri fuori un film, non sai se partirà bene, partirà male. Adesso per esempio erano tutti abbastanza allarmati dall'inizio di questo nuovo Spider-Man, perché sì, è partito primo in classifica, ci mancherebbe, certo, altro, però magari non con tutto quel successo che ci si attendeva. E quindi ti dico, cosa vedremo? Vedremo dei listini che hanno ricominciato a mettere dentro un cinema che ti colpisce al cuore, un cinema che ti prende, un cinema di storie, di vicende, molte biografie, molte storie che hanno cambiato l'umanità. Sono un cinema che vola alto, anche nello spettacolo. Pensiamo per esempio a uno dei film più annunciati di quest'anno, che è Blade Runner 2049, con Ryan Gosling ed, certo, Harrison Ford. Harrison Ford che fa il se stesso 30 anni dopo praticamente, regia di Ridley Scott, e qui siamo di fronte a un film che chiaramente si presenta come una sorta di totem. Avete visto già qualche immagine? Abbiamo visto qualche immagine, e per quello che abbiamo visto, pelle d'oca. Ovviamente poi un trailer, soprattutto perché i traileristi sono molto bravi, certo, non ti deve portare sulla strada. Gli ascoltatori lo sanno, che a volte dicono, ah, questo mi piace, e poi le scene più interessanti erano nel trailer, magari però, per Ridley Scott no. Però ti dico, ecco, questo Blade, questo Ryan Gosling che arriva in questa stanza di un enorme spazio che sembra una hall di un albergo, con musica americana degli anni 50 sullo sfondo, che arriva da una radio, da un jukebox chissà, e in quello spazio irrompe Harrison Ford. Insomma, ecco, già quel minuto di trailer c'è bastato. Quindi questo per dirti il grande cinema, il cinema più atteso. Cinema atteso anche, per esempio, quello che porterà Matt Damon in questo film che si intitola Downsizing, che è diretto da Alexander Payne, e che è un film interessante perché risponde a una, come dire, a un interrogativo intrigante. Cosa succederebbe se tutti fossimo enormemente più piccoli? Se tutti fossimo miniaturizzati? Beh, la risposta che del film è che succederebbe che tutto costerebbe meno, anzi che i nostri soldi, il nostro patrimonio varrebbe molto molto di più, che per una collana di diamanti e una parure con orecchini di diamanti una signora spenderebbe $84 perché servirebbe una polvere di diamante, che una casa costerebbe... Allora, se tu ti fai miniaturizzare, come succede in quel film, passi a vivere in un posto, in un luogo dove tutto è più piccolo, tutto è protetto e la tua vita diventa molto più ricca. Ovviamente ci saranno delle controindicazioni, ma certo, perché ma questo è già un film, e Alexander Payne, che ricordiamo, regista, tanto per dirne una, di Nebraska, è un regista molto sensibile a mio modo di vedere. Per quello che abbiamo visto, questo è un film dal quale ci aspettiamo molto. Abbiamo citato dei film internazionali, i listini prevedono insomma la presentazione sia di film internazionali che di film italiani. Assolutamente, di film italiani, ad esempio, ecco, mi ha colpito tantissimo, lo voglio dire subito, il nuovo film di Roberta Torre, che è distribuito da Medusa. E di tutto quello che ho visto, è il film per il quale il trailer mi ha fatto pensare non vedo l'ora di vederlo. Davvero? Davvero, è un film pazzesco, perché ha una messa in scena punk, postmoderna, post-punk, non so come definirla, assolutamente pazzesca. Del resto Roberta Torre ci ha abituato a questo grande gusto della messa in scena. Si chiama Riccardo va all'inferno, è un Riccardo III ambientato all'inferno, è praticamente un musical. C'è Massimo Ranieri, protagonista, trasfigurato, direi diabolico addirittura, con questo look totalmente rasato, pelato, un ghigno quasi satanico. Ci sono le musiche originali di Mauro Pagani. Ma che meraviglia! E quindi c'è un milieu, diciamo, che ci lascia aspettare un film pazzesco, di quelli che si facevano negli anni 70, no? Con libertà, con coraggio, fregandosene del mainstream, del target, di queste robe qua. Faccio un film perché così deve essere. Roberta Torre è una delle registe più coraggiose del nostro cinema, quindi questo è davvero molto molto atteso. Però il cinema italiano ovviamente si appoggia anche sulla stagionalità, sappiamo che arriva Natale, ci piaccia o ecco, non ci allora, piaccia, esistono, siccome ogni anno cioè, ma sono morti, sono vivici i panettoni. Ovviamente Ariccione già l'avete capito, perché siete in anticipo di 6 mesi. Diciamo che sono vivi, ma forse non stanno benissimo, nel senso che da una parte c'è chi produce il cinepanettone nuovo, lo metto fra virgolette perché è difficile essere nuovi in un genere così, e sappiamo che la coppia d'oro Boldi De Sica non lavora più insieme. Massimo Boldi però è protagonista di questo nuovo cinepanettone, sempre diretto da Neri Parenti, e nel quale quindi si chiama Natale da chef. Siamo al G7 praticamente, e ci sono questo clan di chef sfigatissimi che devono far da mangiare i potenti della terra, ovviamente non ne azzeccano una, questa è la trama, è finita, è questa. Ok, quindi cinepanettone letto neppuno. Alimentare. Come risponde De Laurentiis, Phil Mauro? Risponde con un collage del meglio di 35 anni di cinepanettoni a partire da Vacanze di Natale. Si intitola Super Vacanze di Natale. E qui, diciamo, l'elemento di continuità, l'elemento artistico è rappresentato da Paolo Ruffini. Paolo Ruffini è un cinefilo incallito. Mi ha confessato di avere 20.000 VHS. Non gli ho voluto chiedere dove li tenga perché avevo paura. E chi le spolvera? Li ha visti tutti. È un cinefilo incallito ed è un cultore, un nerd dei cinepanettoni dalla prima ora. Ecco, lui farà un po' da, vogliamo dire, co-regista di questo nuovo film. Cioè prende, ha preso tutta la storia del cinepanettone e l'ha messa insieme, non facendo un collage puro, ma dandogli anche una sorta di trama interna, come se tutti i vari cinepanettoni si parlassero fra di loro, no? Operazione rischiosissima, potrebbe essere qualcosa di davvero curioso o un disastro, una via di mezzo, no? Però secondo me titillerà qualcuno che magari il cinepanettone nuovo dice anche basta, però andare a vedere come abbiamo riso in tanti anni, perché abbiamo riso in tanti anni, forse magari anche gli interessa, può essere una goliardata nostalgica che magari ti fa venire voglia di andare al cinema. Si sa cosa farà De Sica, non so perché hai citato Boldi. Guarda, ma De Sica, De Sica non sarà, cioè sarà in uno di questi due, esatto. Nell'antologico è super presente, cioè, ovviamente. In tantissime scene, per il resto non sarà nell'altro e vedremo adesso. Vedremo, poi avremo, vedremo, certo. Avremo molti listini. Voglio spendere, se ho ancora qualche certo. secondo, per un altro qualche altro titolo. Intanto il nuovo film di Paolo Virzì, perché beh. Dopo La pazza gioia beh, sì. era molto atteso. Il suo film è un film americano, anche Soldado è un altro film italiano girato in America, di Sollima. E quindi, come dire, che un cinema italiano degli autori più affermati come Virzì, ma anche giovani emergenti, che si sta facendo vedere anche in America. Questo è un dato importante. Il film di Virzì si intitola Ella and John. I due attori sono Ellen Mirren e Donald Sutherland. Ah, due non male. Due non male. Uscirà a gennaio. Abbiamo visto il trailer. È finita con applausi a scena aperta, perché è la storia di una coppia con lui, Donald Sutherland, che comincia ad avere dei problemi con l'Alzheimer e però decidono lo stesso di partire, di fare quel viaggio in camper che magari non hanno fatto fino a quel momento, con qualche traversia, perché effettivamente uno che si dimentica la moglie, l'abbiamo sentito anche nella cronaca queste sì. cose, che si mette la moglie al parcheggio non è che sia proprio affidabile. Però vi dico, per quello che abbiamo visto, la magia di questi due grandi attori e la regia così poetica di Virzì ci fanno attendere un film importante. E poi voglio parlare di due chicche che arrivano dall'ultimo Festival di Cannes. Uno si chiama Nothingwood, è un film afghano ed è stato un successo clamoroso alla Kenzen, perché è la storia di un regista attore che con veramente quattro soldi in croce, potete immaginare, ha girato più di 110 film in Afghanistan, tutti film d'azione ovviamente, sparatorie, cose eccetera, ed è una cosa divertentissima. Un altro film che ha segnato questo Festival di Cannes alla Kenzen è stato The Florida Project, sarà un'altra grande scoperta per questo film ambientato nella banlieue di Disneyland a Orlando. Incredibile. Che sembra una contraddizione in termini, sì. ma veramente esiste. Vabbè, poi scopriremo, sarà l'anno prossimo sarà quello del film di Zalone, perché arriverà. Assolutamente, però so è stato già annunciato, non hanno fatto vedere niente, okay. hanno detto solo un film di Checco Zalone. Però hanno sappiate... detto un film di Checco Zalone e il regista dei film di Zalone, Gennaro Nunziante, che farà cose con Rovazzi. Esatto, ma... però basta, sappiamo basta. Questo e non sappiamo altro. Fantastico, allora noi abbiamo preso nota di tutto, Franco Conte, ci risentiamo dopo il giornale radio delle 18 con La Rosa Purpurea. Grazie per essere stato con noi al Sabato del Villaggio. Ciao Marta. Il sabato del villaggio. Radio 24 e Touring Club Italiano presentano Passaggio in Italia, alla ricerca dei luoghi da scoprire. Le chiamano i Monti Pallidi. Sono le Dolomiti. Uno straordinario insieme di gruppi montuosi delle Alpi orientali, vanto senza uguali del nostro territorio, tanto che nel 2009 l'UNESCO le ha dichiarate patrimonio dell'umanità. Trascorrere del tempo, le proprie vacanze nelle Dolomiti è un'esperienza impagabile che ciascuno dovrebbe regalarsi nella vita. E difatti i turisti che ogni anno le visitano sono migliaia. L'incanto di questi luoghi è indescrivibile, senza contare che la permanenza può essere delle più varie. Le Dolomiti offrono un ventaglio così ampio di attività che si possono svolgere nel loro vasto territorio, tanto da non conoscere veramente alcun rivale. Una delle località più belle tra le tante perle delle Dolomiti è il lago di Molveno, un luogo veramente incantato che offre tante opportunità per una vacanza all'insegna del relax, dello sport e del divertimento. Ma non solo. Sembra strano, ma 10 delle spiagge più belle d'Italia si trovano in Trentino. E secondo la guida di Legambiente del Touring Club Il Mare Più Bello 2017, Molveno è una di queste ed è addirittura in cima alla classifica dei laghi più puliti d'Italia e delle località regine del turismo lacustre. Molveno ha ricevuto da Legambiente la valutazione massima, ben 5 vele, a riconoscimento della sua straordinarietà. E torniamo nel sabato del villaggio a parlare di una delle cose più belle della vita, che è il viaggio. Dove andiamo questa settimana? Abbiamo già assaggiato un pezzettino della radioguida che ormai conoscete benissimo, che realizza Radio 24 insieme al Touring Club Italiano, ma per sapere di più del luogo di questo fine settimana abbiamo in studio, come sempre, Anna Rita D'Ambrosio. Ciao Anna Rita! Grazie Marta di questa bellissima presentazione. Anche questa settimana la destinazione ti piacerà. Sì, dove andiamo? Dove andiamo? Allora, andiamo nel Trentino e andiamo anche sul lago di Molveno, cioè nella nostra radioguida, che ovviamente dovete scaricare, perché come dico sempre il viaggio comincia nel momento in cui vi informate sulla vostra destinazione. Si parla di Molveno e di luoghi del Trentino sui quali ci soffermeremo questa settimana. Il lago di Molveno, oltre ad essere il più bello e pulito d'Italia, lo dice la guida di Legambiente e Touring Club Italiano, gli ha dato 5 vele, è il luogo adatto per riposare, per divertirsi, anche comodo francamente da raggiungere, 3 ore da Milano o da Bologna, 2 ore da Verona, e insomma è un posto straordinario per tutti, per giovani, per anziani, per le famiglie. Si trova, come abbiamo detto, nel cuore delle Dolomiti, nelle quali da ieri c'è un appuntamento speciale. Cosa succede sulle Dolomiti in questi giorni? Torniamo a parlare di concerti e torniamo a parlare di spettacoli in ambientazioni assolutamente fantastiche. Allora credo di aver capito di cosa stiamo parlando. Parliamo dei suoni delle Dolomiti della 23esima edizione che ci ha raccontati Chiara Bassetti della direzione artistica. Sono 23 anni che tutte le estate in Trentino si cammina sulle Dolomiti lungo questi sentieri bellissimi per raggiungere conche molto suggestive nei pressi di rifugi altrettanto belli ed accoglienti per godere della musica di importanti artisti che arrivano un po' da tutto il mondo. Ci sono tanti luoghi che sono stati scelti e io ho un po' curiosato nel sito, insomma è davvero un'esperienza a tutto tondo quella della partecipazione a questi concerti, a partire dagli orari, dall'attrezzatura. Certo, bisogna essere appunto agghindati, vestiti non per la sala di concerto, per cui in maniera elegante, ma con l'abbigliamento adeguato alla quota che si va ad affrontare. Il festival propone tantissime quote, quindi si parte dai 1000 metri e si arriva ai 2700 metri, quindi di conseguenza insomma l'abbigliamento cambia a seconda del concerto e dell'occasione. 24 gli appuntamenti di quest'anno e tanti nomi importanti. Sì, il festival appunto cerca di coinvolgere artisti di fama internazionale. Abbiamo iniziato con i 12 violoncellisti dei Berliner Philharmoniker e già domani ospiteremo Joy Alexander, questo talento incredibile che arriva dall'isola di Bali e che ha stupito un po' il mondo, diciamo, per la sua grande, il suo grande talento. È un jazzista, un pianista. E penso insomma che sarà una bella esperienza. Poi via via avremo Cicoria, avremo una settimana dedicata alla musica classica in compagnia della Cremerata Baltica e di Mario Brunello, e poi via via tantissimi altri, Giuliano Carmignola piuttosto che il quartetto Kelemann, e poi la musica jazz appunto che chiuderà il suo percorso con Ulisse Spatarella in un quartetto di bandoneonisti, la world music. In occasione dell'Alba, che abbiamo in programma il 15 di luglio, l'orchestra di Piazza Vittorio ci porterà in un viaggio dedicato alla musica delle religioni del mondo. Poi avremo il progetto Bella Ciao, un progetto di tradizione che un gruppo di importanti musicisti italiani porterà in Val di Fassa, insomma tantissima musica. Jack Savoretti sarà sopra Madonna di Campiglio verso la fine del mese di agosto per un concerto molto molto speciale. Gli appuntamenti sono tantissimi e vi annoierei a elencarli proprio tutti, e quindi il consiglio è quello di andare a vedere sul nostro sito ilsuonidelledolomiti.it e curiosare all'interno insomma della nostra proposta. Ecco, mi ha colpito anche il fatto che sono in orari diversi, ci sono anche quelli all'alba, no? Sì, abbiamo appunto due appuntamenti all'alba, che è davvero un momento molto speciale della giornata, no? E salutare il sorgere del sole con la musica è davvero un'emozione molto forte, perché al di là della bravura degli artisti, della proposta musicale, ma vedere le montagne che si tingono di oro è una cosa che ti riempie il cuore. Infatti sono tantissime le persone che partecipano a questi eventi, pur dovendosi alzare nel cuore della notte, alle 2, magari all'1 di notte, per raggiungere poi il posto nel quale si svolge il concerto. Ecco Chiara, quindi è importante collegarsi con il sito anche per sapere se dovessero mai esserci delle variazioni. Vogliamo dire che sono dei concerti comunque aperti a tutti, cioè ci sono delle difficoltà che voi segnalate poi sul sito a seconda, sì, del percorso? Tutte le indicazioni rispetto alle lunghezze dei percorsi, alle difficoltà dei percorsi. È chiaro, è un festival adatto a tutti, cioè sia alle famiglie che agli alpinisti, perché noi abbiamo percorsi di 30 minuti, ma abbiamo percorsi anche di 4 ore. E quindi poi ognuno deve autodeterminare la propria partecipazione al festival sulla base delle proprie caratteristiche, del proprio allenamento. In questi 23 anni però insomma anche famiglie hanno partecipato? Certo, perché il festival appunto ha nella dimensione informale una delle sue chiavi vincenti, cioè la possibilità di andare in montagna camminando insieme agli artisti, facendo la stessa fatica, condividendo anche così suggestioni, emozioni, e poi di mettersi su un prato, mangiare il proprio panino e quando inizia la musica appunto godere di quest'arte straordinaria, di questo paesaggio incredibile, è un'esperienza che va bene sia per gli adulti che per i bambini. Devo dire che i bambini in particolare sono molto attenti, noi abbiamo visto che negli anni, grazie anche probabilmente ai genitori, questi bambini che partecipano ai suoni sono proprio affascinati anche dagli strumenti magari diversi, particolari, come quelli africani, e quindi è un piacere poterli avere tra il pubblico. Chiara, ci ha incantato con queste parole, allora invitiamo i nostri ascoltatori a collegarsi con il sito per tutti i dettagli e li invitiamo a godere di questi spettacoli straordinari. Grazie a Chiara Bassetti. Grazie a voi. Allora, manifestazione bellissima, luogo bellissimo, poi l'estate in montagna. Ha il suo fascino, devo dire che ha il suo fascino. Marta, la prossima settimana però ti faccio un'anticipazione. Dalle montagne ti porto al mare. Ma sì, diversifichiamo, dopo tutto l'Italia ha un sacco di luoghi fantastici da scoprire e quindi cominciamo a viaggiare, ma anche a sognare il viaggio, perché il viaggio comincia quando cominciamo a organizzarlo, con Radio 24, con il Sabato del Villaggio, con le radioguide. Dove troviamo le radioguide? Sul sito di Radio 24 e sul sito del Touring Club. E sempre con Anna Rita D'Ambrosio. Ciao Anna Rita. Ciao.